Ragazzi, ragazzi, allora, c'è il bassista. Oh, l'abbiamo liberato. E come hai fatto a uscire dallo scantinato lì? Allora, intanto come stai? Stai bene? Benissimo. No, questo è il bassista degli Aster Band, che voglio dire... È quello che hanno chiuso nello scantinato, no? Tutto a posto? Sì, sì, benissimo. Ma ti danno da mangiare? Più o meno. Sì. Lo stanno minacciando con un pugno? Quindi ha detto di sì, ma ti danno davvero da mangiare? Sì. Ah, ok, non mi sembrava convinto, ma tu cosa fai in questo scantinato da solo al buio? C'è anche il batterista e niente, al buio. Niente, ok. Non lo vedi. Ma suonate, avete gli strumenti con voi? No, nemmeno. Niente, grazie bassista di essere con noi, ci fa molto piacere. Grazie mille a voi, finalmente sono uscito. Bene, basta, salutiamo il bassista, ragazzi, cioè sono tutti davanti al telefono, cioè siamo qua, lo staff di Dedicato, tutti davanti al telefono, io ti sequestro il telefono. Ti sequestro la vita. Io sono pienamente d'accordo. Vedi? Allora, quanti sono d'accordo a sequestrare questo telefono? Alziamo la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lei si astiene come al solito, lui non c'è niente, si astiene. Bene, siamo la maggioranza. Telefono sequestrato. Ci sono persone qua che invece che parlare insieme guardano il telefono, addirittura delle volte chattano alla persona di fianco. Va bene, grazie, non dica niente, a posto. È tornato di nuovo il bassista con una sedia. Perché non avete le sedie nello scantinato? No, nemmeno. Niente, cioè in piedi. È una scoperta nuova per lui. Sì, è una cosa che... L'abbiamo fatto scoprire da poco. La sedia? Sì, non l'aveva mai vista, sì, siccome è sempre stato rinchiuso in uno scantinato. Il batterista, ma dello sgabello. Ma okay. Solo uno sgabello senza cuscino. Ah, ok, quindi diventa problematico utilizzarlo, direi. Lo utilizzo comunque. Io ho una domanda, okay. una domanda per il bassista. Volevo sapere se in questi giorni gli è stato dato da mangiare e da bere. Cioè, giusto per... Cioè, è stato dato da mangiare o da bere? Mi è stato dato da mangiare e da bere? Ah, sì! Allora, va bene, bassista, comunque, adesso... Il tuo migliore, quello che ti immagini. È uscito anche il batterista dallo scantinato? Molto bene, bassista, batterista. Due torni dentro, non puoi stare fuori entrambi. No, ora sono salvi. Ora sono salvi perché Dedicato li ha salvati. Sotto effetto scorre il fiume dell'illusione, tra sogno e realtà, tra fantasia. vita sia in ragione. Un viaggio nella nazione, sogni di cera che vanno verso il sole, credenze smarrite altrove. Fai la penitenza, fai la riverenza, Barbara Buscetta, sette peccati capitali, sette anni in capitale, sistema nervoso centrale, nevrosi periferica, mitra dimetrica, tuta mimetica, ronda bisbetica, campana di vetro, antiproiettile, un mondo sotto vuoto, specchio di allodole, pelle di rettile, poveri illusi, ricchi e delusi, bocche cucite, occhi chiusi, drogheria della realtà, i vostri padroni ottusi, schiavi confusi, si fronteggiano a duello, autodistruzione, bevete il cervello, fratello contro fratello, falce di morte, pneumatico martello, pugno di ferro, polmone d'acciaio, dente d'oro, bastone e mantello, l'illusionista forse illude, mangia carni crude, una volgare apparenza, questa esistenza, attimi di effervescenza, nazionale l'alleanza, odio e bugie, fin dall'infanzia. Sotto effetto di un'illusione costante, mille metodi per appannare la mente. Sotto effetto di un'ipnosi latente, conducono la gente, mettono le penne. Sotto effetto di un'illusione costante, mille metodi per appannare la mente. Sotto effetto di un'ipnosi latente, conducono la gente, mettono le bende. Sette dormienti nella grotta pronti al risveglio, cadono le ragnatele, passaggi di potere, la carne vale perché ci siamo dentro, la mente scende e sale come sabbia di clessidra, spazzata via da una folata di folla inferocita contro la vetrata, trasfusione generale, richiesta speciale, alzi la mano chi si vuole svegliare. Azzuffati come le galline, per quattro chicchi di mangime, rete nel pollaio, quattro galli di regime, fattoria di massoneria, illusionismo battente, microchip Motorola sotto pelle, satellitario, via cranio, chi schiva, chi schiavo di questo scenario, sotto effetto illusione, cose che non sono, vite che ti credi, ti giri e non c'è più, la major dei tuoi sogni, la merda dei tuoi bisogni, fruga nella monnezza, nel bosco dei cespugli, ragazzo di buona famiglia, affiliato al peso dei bagagli, socio della città, reietto della società, che mangia merda, firmata bontà. Sotto effetto di un'illusione costante, mille metodi per appannare la mente. Sotto effetto di un'ipnosi latente, conducono la gente, mettono le penne. Sotto effetto di un'illusione costante, mille metodi per appannare la mente. Sotto effetto di un'ipnosi latente, conducono la gente, mettono le penne. Sotto effetto. Sotto effetto. Cuba Cabal, Illusion, grande Cuba, ciao, è uno di noi, è uno del nostro staff con il cuore, non con la pratica quotidiana, perché da, direttamente dalla regione Abruzzo, Costa Nostra, e Cuba Cabal, non ci frequentiamo tutti i giorni, diciamo, però gli vogliamo bene, ci vogliamo bene. Ciao Cuba, grande pezzo, come sempre. E benvenuti a Dedicato, benvenuti anche oggi, i ragazzi del nostro staff hanno liberato il bassista, come avete potuto sentire, e noi l'abbiamo definitivamente liberato, basta, basta chiudere i bassisti negli scantinati, ragazzi, avete finito con questa pratica orribile, poveri bassisti, ci servono, li vogliamo bene, li rispettiamo, e i bassisti sono parte fondamentale del gruppo. Quindi liberate i bassisti dagli scantinati, tutti, tutti, perché bassista libero, bassista felice, gruppo ancora più felice. Detto ciò, allora, torniamo un attimo sempre ai nostri ragazzi, stavolta li facciamo suonare, non li facciamo parlare, basta, hanno finito di parlare, per qualche mese non li vogliamo più sentire, e quindi... sempre durante il nostro camp estivo siamo andati a esplorare pezzi nuovi, brani anche anziani, come dicono loro, ma questi sono brani da boomer, sì, però i nostri ragazzi devo dire che stanno sul pezzo di brutto, perché li conoscevano, gli piacevano, e quindi adesso andiamoci a sentire prima le prove in acustico e poi un pezzettino di live di un brano dei Creedence che insomma, voglio dire, tanta roba, Have You Ever Seen the Rain, quindi tanta roba. I know me not play for romance, Aster, un gruppo giovanissimo di Zola Predosa, quindi della provincia di Bologna, sono in cinque, sono veramente fantastici. Abbiamo Mark alla batteria, Andrea alla chitarra, Josué chitarra e voce, Lorenzo tastiera e il nostro bassista, che appunto era quello che era stato rinchiuso nello scantinato e poi liberato, che è Alessio, ma non solo bassista, lui suona il basso e il basso tanica. Il basso tanica è un basso autocostruito, è proprio un progetto suo, da notare che questo ragazzo ha 15 anni e si è costruito un basso con una tanica di plastica, cioè proprio una di quelle taniche, no, che si utilizzano normalmente per trasportare liquidi, e lui ci ha costruito un basso con l'aiuto ovviamente di adulti intorno a lui, ma neanche troppo direi, perché il lavoro grosso l'ha fatto lui, il lavoro sporco, e è uno strumento che suona benissimo, è fantastico, cioè grande Ale, perché quando mi hai fatto vedere il basso tanica, insomma, ho detto beh, bisogna raccontarlo questo strumento, perché tanta roba anche questo. Oggi in generale tanta roba veramente. Ora niente, vi lasciamo con non lo so come definire questa cosa, uno sketch, un boh. Le cose che abbiamo in comune sono 4.850. Ammazza. Le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. No, io 70 veramente. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie e non solo il cervello. Ah, ci voleva molto a capirlo. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Oh, grazie. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace, insomma, ci piace la musica dai tuoi volumi fin quando lo stereo la posso portare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo e Aurea di Prince. Sì. I Police. Sì, Lorenzo, insomma. Mettiamo un CD prima di addormentarci, appena svegliati deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi, sì, quando no. Io parlo, tu parli, no, quando aspetta, io rido, tu no, ridi, non quando io piango, così. Tu piangi, quando no. Io dormo, tu dormi, ma quando non io è vero. Parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, ma tu non ridi. È, ma non è vero, perché quando tu piangi io ti consolo. Le cose che abbiamo dormi, in comune sono dormo. Così tante che quasi spavento, entrambi siamo vivi da più di 20 anni e comunque ad entrambi no, da meno ne di 30. Ma no, tu ne hai 11. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere e fare amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che a farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cosa? Oh, cosa ti serve ancora? Ma niente, grazie, sono a posto. A me è bastata un'ora. Un'ora ti è bastata per far cosa? Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto. Dicevi, ma guarda, lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso bracchetto. Che buone le patate! E ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate. Poi le emozioni. Ma io non lo posso bere il vino! E ci mancherebbe. Le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo e vedere che in viso eri già tutta rossa. Scoprire, stupito e commosso, che avevi le mie stessi denti che ossa. Sensual! Allora ti chiedo, non è sufficiente? Cos'altro ti serve per esserne certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta? Bah! Quando io dormo, Tu dormi quando io parlo. Io dormo sempre. Tu parli quando io rido. Io rido sempre. Ridi quando io piango. Io piango tu sempre. Tu piangi quando io dormo. Io dormo tu sempre. Tu dormi quando io parlo. Io parlo sempre. Tu parli quando io rido. Tu ridi quando io mangio. Parlo. Io mangio. Allora cosa è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune sono 4.850, il conto da sempre da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei negli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché è il mio normale, ma il tuo è troppo bello. Troppo bello. Che abbiamo in comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare, ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare, ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince. Smettiamo un CD prima di addormentarci e il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa, entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30, ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore, lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore, ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi sei tu che per prima l'hai detto, dicevi ma guarda lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso branchetto, ed ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate, poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate, abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certo? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi, ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? È bastata un'ora. In comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale ma il tuo, oh, è troppo bello. Yeah. Daniele Silvestri, le cose in comune, e io e la mascotte, diciamo che, insomma, non so, in un momento di delirio collettivo, come al solito succede nello studio di Dedicato, ecco, è successo che io e la mascotte, insomma, abbiamo dialogato su questo brano che ci piaceva molto. E bene, grazie mascotte, grazie, grazie, grazie. Ora io vi lascerò di nuovo con un brano live suonato da gli Aster, che sono appunto questi nostri fanciulli, ormai fanno parte di noi, e quindi insomma gli diamo spazio, dai, gli diamo spazio. Hotel California con The Aster. Buongiorno, benvenuto in studio. Buongiorno. Ma scusi, mascotte, ma come è? Cioè, si è svegliata adesso? Non ho capito. Ma mascotte, ma non può essere sempre stanca. Lo capisci che la sua età deve essere un attimo arzilla. È ora di pranzo. Adesso non mi dica che vuole mangiare, per cortesia, subito. È perché parte così tutte le puntate. Ogni puntata la mascotte deve mangiare qualcosa. Senta, mascotte. Chiudiamo questa seconda puntata dove ci sono stati ospiti tutti i ragazzi dello staff di Dedicato, che mai li sentiamo parlare perché loro suonano e quindi ognuno ha la sua da dire a modo suo. Questa volta invece in queste due puntate hanno parlato. Ecco, mascotte, lei che cosa ha da dire sullo staff di Dedicato, sui nostri ragazzi, i nostri fanciulli ancora più piccoli, quindi un po' più coetanei suoi, ecco, esprima un suo parere sui suoi colleghi dello staff. Che è tutta colpa di Fabio. Ok, certo, vero, questo non l'avevamo detto. Fabio è la nostra seconda mascotte, perché noi la mascotte ce l'abbiamo, non sia mai che poi si offende, però abbiamo... No, è una seconda mascotte, quella di scorta, che è sempre colpa sua, e abbiamo fatto anche le magliette con scritto tutta colpa di Fabio, perché lo dobbiamo spiegare. Fabio in realtà è colui che non ha mai colpa, lui è sempre tranquillo, educato, sereno da quando è piccolo, perché lui diciamo che ci frequenta da quando era veramente piccolo, e ora ha 19 anni ma ha accumulato le colpe di tutti gli altri. Quindi qualunque cosa succeda, alla fine è colpa di Fabio, perché in realtà lui è quello che non fa mai niente. E queste sono le gioie della vita, quindi Fabio, ti abbiamo anche dedicato una maglietta, questo momento in radio, che vuoi di più dalla vita, non ti lamentare. Di conseguenza, mascotte, dica qualcosa sullo staff di Dedicato, mascotte, dica qualcosa, lo dica. È colpa di Fabio. Mascotte, qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Ho fame. Ho detto qualcosa di nuovo e di diverso, mascotte. Santa pace, qualcosa di nuovo e di diverso. Queste sono cose che lei ripete sempre, sempre, sempre. Mi puoi cucinare. Ok, ci vediamo la settimana prossima, mascotte. Arrivederci. Saluti gli ascoltatori almeno, per cortesia. ascoltatori, ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko, con Dedicato. E avrò ancora fame. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato.